che appunto non afferisce alla fantasia, ma afferisce a casi di storia non moderna. E i ragazzi magari approfittano di un'ora che sono soli e vengono a comprare questi libri, anche i più piccoli, anche i genitori a volte, quando noi suggeriamo magari il fantasy più di tendenza di quel mese per la lettura come regalo, storcono un po' il naso, dicono ma no, ma non sono libri adatti, non sapendo che invece magari il figlio lo legge la sera prima di andare a dormire di nascosto con la lampadina. Beh, almeno legge, Alberto, e questo almeno è già un buon passo. Che dice, signora Marchetti? Cioè, sì, già, sì, almeno, sì, almeno fanno leggere. Ma Alberto, tu che sei il papà della trasmissione, adesso che non ti stai ancora trasformando, quindi possiamo dire bollino blu per i libri che parlano di vampiri, o avresti delle perplessità in base alle fasce d'età? No, io credo che un adolescente, quando si orienta su un genere, su un libro, chiaramente sta coltivando una passione. La lettura non è educativa per un adolescente in una dimensione, deve essere proprio divertimento, per cui se quello è il suo divertimento, io mi pongo poi la domanda che sta dietro la domanda, cioè qual è il significato, qual è il bisogno che proprio quel libro e quella scelta vada a assolvere per i ragazzi, e non avevo le idee chiare. Devo dire che adesso con questa trasmissione me le sono proprio chiarite qua sul colpo, quasi trasformandomi in un vampiro. Ma per qualche altra domanda, se è possibile, io vorrei ascoltare il parere di un ragazzo, di un adolescente che abbiamo in linea con noi. Salutiamo Anna Rita Marchetti. Grazie per essere intervenuta. Grazie, grazie. Buoni a voi. Libri e buoni vampiri. Buona lettura. Grazie. Anche dei vampiri. Buona lettura a tutti. Grazie. Il professore invece resta ancora qualche minuto con noi. Professore, possiamo ancora contare sulla sua disponibilità? Senz'altro, abbiamo tempi lenti come quelli dei vampiri. Come quelli dei vampiri, un andamento lento, perché vogliamo metterla un po' a confronto con Paolo, un studente di Rimini, ha 18 anni, un grande lettore, frequenta l'ultimo anno del liceo classico, è in linea con noi, ama i vampiri. Paolo, benvenuto. Grazie. Allora Paolo, tu e i vampiri. Guarda, io l'ho ascoltato un po' prima della trasmissione, ha una posizione molto precisa Paolo, apparentemente a lui i vampiri oggi così tanto di moda non piacciono, però lui ha detto di essersi davvero molto appassionato alla lettura del Dracula originale, quindi prova un po' a farci capire cosa ne pensi di vampiri e in che cosa magari ti differenzi dai tuoi coetanei. Innanzitutto non sono assolutamente un appassionato della saga di Twilight, che adesso è così di moda. Secondo me modifica e un po' svilisce la figura del vampiro, che è così bella e comunque fornisce un surrogato un po' pop. Magari è proprio questo che però quindi piace tu sei per il vampiro originale, Paolo. Di la verità. Mi piace molto molto di più il Dracula originale. Il Dracula originale, di cui ci sono stati dei film magnifici, Alberto. Sì, e quelli li abbiamo visti. Li abbiamo visti. Professor Teti, quindi noi Paolo punta sul Dracula originale, una figura che devo dire che ci ha sempre preso, fatto innamorare, ci ha intimorito, ma è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti noi. Questa casa non è un albergo. I vampiri piacciono così tanto ai nostri ragazzi? Alberto. Ne abbiamo in linea uno con noi, Paolo, a cui piace il vampiro originale. Però Paolo, vorrei capire con te come mai tra i tuoi coetanei, negli adolescenti di oggi, per esempio Twilight e in generale il mondo dei vampiri ha fatto così tanta breccia? Twilight presenta comunque anche una storia d'amore, che è sempre un argomento che affascina tantissimo i ragazzi della mia età, e presenta un protagonista che ha tutte le caratteristiche per essere, possiamo dire, un eroe romantico che si può facilmente idealizzare. Professor Teti, è d'accordo? Io sono assolutamente d'accordo, perché Twilight è una bella storia d'amore, ma certe volte ricorda dei film come Il tempo delle mele, per cui il vampiro è banalizzato. E devo dire che il libro di Stoker è un grande libro di letteratura, non è un libro semplicemente vampirico, ma è un grande romanzo, e certo che lì vengono fuori temi come la seduzione, l'immedesimazione con l'altro, la paura di morire, l'esorcismo della morte, che devo dire però in qualche modo rimane, ad esempio, il bisogno di esorcizzare la morte anche in questi film poi di seconda, diciamo, qualità per definirli. Mi sembra un film di seconda qualità. Quindi dice io il nostro sono professore. Molto soddisfatto della nostra discussione, e perché mi sento di poter dare una conclusione a mamma Paola che ci aveva mandato la sua mail. Sì, però non guardarmi così fisso perché tiro fuori l'aglio. Ormai allora, il professor Tetit mi ha svelato tutto quello mamma che dovevo Paola sapere. E tutti i genitori che vi domandate come mai, se è pericoloso per i vostri figli appassionarsi così tanto di Twilight. Stiamo sereni. La risposta è no, perché stanno appassionandosi non a una storia d'orrore, ma una grandissima storia d'amore molto romantica. E tra l'altro, come ci ricordava il professor Vito Tetti, forse costruire un po' anche di fantasie, avere a che fare con storie che un po' sono al confine tra la vita e la morte, serve proprio a esorcizzare una paura di morte che effettivamente in adolescenza arriva insieme a un milione di altri pensieri che prima i bambini non avevano. Allora, professor Tetti, grazie davvero per essere stato con noi. Ricordo La melanconia del vampiro, Manifesto Libri. Grazie professore per essere stato con noi, grazie a Paolo. Grazie a voi. Niente, grazie a voi. E in bocca al lupo, quest'anno è la matura. Crepi. Grazie Paolo, buona giornata, grazie in bocca voi. Al lupo. E dai vampiri passiamo al nostro consiglio di lettura, andiamo. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro che si intitola Il grande libro della famiglia. Alberto finisce qua, non dei vampiri, della famiglia. Così ci rassicuriamo un po'. Ci rassicuriamo un po'. Per ricevere a casa questo libro dovete essere naturalmente il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it. Mettete, mi raccomando, il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. E adesso, Alberto, i vampiri fanno paura, noi cambiamo decisamente argomento e parliamo di premi e di punizioni, che a volte fanno paura ugualmente, ma servono. Sì, soprattutto in relazione ai nostri figli adolescenti c'è un'idea che l'assessore alla salute di Milano ha introdotto, un assessore molto attivo, lo abbiamo avuto più volte nella nostra trasmissione, perché ha proprio introdotto idee molto originali per toccare il mondo del rischio comportamentale tra i ragazzi, e questa ci piace particolarmente, anche se come sempre c'è chi sta criticando, ma noi vogliamo sapere intanto di che cosa si tratta. Salutiamo l'assessore Giampaolo Landi di Chiavenna, assessore alla salute del Comune di Milano. Professor, assessore, bentornato. Grazie, grazie come sempre a voi per l'attenzione che prestate a queste nostre iniziative. Sono partito da dati noti e tristemente noti sull'uso e l'abuso delle sigarette, quindi dell'età giovanile in cui si inizia a fumare nella città di Milano e genericamente anche in Italia, e sull'abuso dell'utilizzo delle sostanze alcoliche e superalcoliche. Sì. Numeri molto pesanti, ho riflettuto e ho capito che non si può sempre solo procedere con le sanzioni, gli editti e la cultura della proibizione, ma che bisogna un attimo stimolare anche il senso della disciplina, il senso della responsabilità individuale e sociale di questa generazione, che comunque la generazione che dovrà andare ad assumersi delle responsabilità nella gestione della cosa pubblica o privata che sia, e quindi ho ritenuto e ritengo che sia importante dare loro fiducia, dare fiducia a questi ragazzi e questi ragazzini, perché possono capire l'importanza della prevenzione, la pericolosità del fumo e dell'alcol, e quindi ho ritenuto e ritengo, sperando di fare cosa buona e giusta, come direbbero alcuni, di aiutare queste persone a dire va bene, stop and win, direbbero gli inglesi, fermati, non fumare, smetti di fumare, fermati di strafarti di alcol e superalcolici, e se lo fai e se ti impegni a farlo non ti do uno schiaffo, non ti do una multa, ma anzi ti do dei premi, piccoli e grandi che siano, ma ti voglio premiare il tuo sforzo, la tua buona volontà, il tuo senso di coscienza e di educazione alla cultura della vita. Quindi premiare i comportamenti sani giovani e il desiderio, l'impegno dei giovani a prendersi proprio cura della propria salute, diventare più responsabili. Alberto, tu come giudichi questa iniziativa? Ma intanto direi che proprio psicologicamente questo è usare la tecnica che si chiama del rinforzo positivo, che è tra l'altro una delle cose che facciamo di più anche come genitori. Cioè, noi abbiamo a disposizione le punizioni, ma abbiamo anche a disposizione i premi, e la differenza sta che con le punizioni noi tante volte lanciamo un messaggio ai nostri figli: non fare questo, non fare quello. Con un premio invece li invitiamo a vedere le cose da fare. Vorrei tanto che tu facessi così. Credo che potrebbe davvero funzionare. La cosa migliore sarebbe che i ragazzi, oltre a immaginare questa come un'operazione voluta da un assessore, cominciassero a parlarne fra di loro e a farlo diventare una sorta di gioco di squadra, cioè usassero poi questa idea delle dinamiche di gruppo per vincere in squadra. Assessore, lei cosa ne pensa? No, io trovo che come sempre diciate delle cose estremamente intelligenti e serie da cui ho solo da imparare. Quindi abbiamo anche, fra le cose, istituito, perché questa non è semplicemente la cultura della premialità fine a se stessa, ma c'è un percorso medico-scientifico importante, c'è un comitato scientifico fatto da Garattini, da Veronesi, dal professor Ravasi, dalla Società di Alcologia Lombarda. Quindi insomma c'è per fortuna uno staff medico-scientifico che mi aiuta e mi sostiene. Ma la finalità è esattamente questo: sprigionare anche quegli effetti positivi, parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani, non pensare che siano sempre tanti cretini messi in fila, ma sprigionare e valorizzare anche comunque quell'importante senso di intelligenza che a volte non viene sufficientemente capito e compreso. Quindi essere punitivi quando è necessario, ma cercare anche di sprigionare la cultura della responsabilità, e quindi la premialità va esattamente in questa direzione. Assessore, ci tenga informati. Buona Grazie, giornata. Come sempre un abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Alberto, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Direi che è tempo di presentare la prossima ospite, la signora Maria Villallegri. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. È presidente della Fondazione dell'ANFAS. L'ANFAS è l'Associazione Nazionale Famiglie con Disabilità Intellettive o Relazionale. Signora, voi vi siete fatti promotori di un progetto pilota che aveva l'obiettivo di andare a colmare un vuoto di strutture extraospedaliere per le famiglie con bambini autistici. Che cosa avete fatto? Beh, innanzitutto le famiglie con minori affetti da autismo hanno la necessità, al pari di tutte le famiglie al cui interno c'è una persona disabile, di avere risposte e servizi in una logica proprio di globalità, di continuità e di intensità. La realtà bresciana, perché io sono presidente della Fondazione dell'ANFAS di Brescia, la realtà bresciana era carente, è tuttora carente di servizi extraospedalieri per quanto riguarda la questione autistica, per quanto riguarda l'autismo. E la fondazione da me presieduta insieme all'associazione ANFAS, essendo la fondazione anche di sua emanazione, è un po' un braccio operativo, esatto, dell'ANFAS, bravissimo, diciamo un braccio così. Operativo, ha ritenuto di intervenire con un laboratorio sperimentale psicoeducativo con risorse proprie, dico anche aiutata dalla fondazione ASM, che ho l'occasione di ringraziare in diretta. Un'attività, una sperimentazione di 2 anni, ma per un numero molto limitato di minori e di famiglie. Quanti bambini? 12 bambini. 12 bambini. Signora, che risultati avete ottenuto? Molto soddisfacenti, perché l'intervento era un intervento in un approccio ecologico, pertanto non rivolto solo al minore, ma rivolto alla famiglia, rivolto alla scuola, rivolto all'ambiente di vita del minore. E abbiamo anche sensibilizzato l'istituzione, che devo dire ha risposto e sta rispondendo, perché innanzitutto a livello locale, parlo di ambiente bresciano, è stata appunto dichiarata che la risposta non era all'altezza dei bisogni e delle evidenze scientifiche. E la Regione Lombardia in primis ha oggi, con la delibera, voglio dire, di sua di fine anno, aperto la possibilità di nuovi accreditamenti per quanto riguarda questa specificità relativa proprio allo spettro autistico, appunto espresso disturbi pervasivi dello sviluppo. Credo davvero che a nome delle, voglio dire, delle famiglie, adesso si tratta di attivare tutta questa, ecco, però il primo passo è stato fatto, quindi direi una buona notizia. La strada è ancora lunga, ci sono tante cose ancora da affrontare e da superare, ma passetto dopo passetto si scala la montagna. Signora, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Alberto? A sabato prossimo. Grazie, buona giornata da Nicoletta Carbone. E da Alberto Pellai.